Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sono le 22 passate da un minuto, anche oggi lunedì 13 maggio 2013 in compagnia di Agostino, casualmente però questa volta è colpa di Maurizio che mi ha assolutamente voluto qui vicino a lui, non posso stare senza di lui, ha detto, e quindi ha voluto me in regia. Ciao nonnetto, come stai? Bene. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Maurizio Calzavara. Allora, Blu Radio Valentina questa sera, eccezionalmente, scherzi a parte, noi piace essere veramente allegri. Questa sera è un'altra serata dedicata al live musicale, ovviamente, eccezionalmente ci sono io, ma insomma gran parte sarà il mio fedele compagno di giovedì, cioè Maurizio Calzavara, a tenervi compagnia con questo live, questi amici che ci raggiungono da Alessandria o Pavia, non ho ancora capito. Alessandria, benissimo. Si chiamano Sinti. Potremmo anche dire San Giuliano Nuovo. San Giuliano Nuovo, che è il paesino che è il nostro quartier generale. Ah. Sì, sì, sì. Sintomi di gioia qui questa sera a Blu Radio Veneto. Prima di cominciare, prima di farveli presentare, vi ricordo i nostri dati, cioè il numero telefonico in studio allo 049 875 6423, mentre gli sms, se qualcuno volesse mandarli a questi amici e a noi, insomma, che poi giriamo le domande, è il 346 23 20 033. Le nostre frequenze, cioè 94 600 e 88 700 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito, cioè www.bluradiovaneto.it, e lì ci potete tranquillamente sentire anche in streaming cliccando su ascolta la radio, e insomma siamo lì 24 ore su 24, ogni qualvolta voi lo desiderate fare. E poi lì nel nostro sito trovate tutte le recensioni inerenti ai nostri artisti che via via si susseguono qui in questa emittente, e anche la recensione in altri, per altri dischi e gli eventi che succedono nella nostra regione, ma insomma qualche volta anche andiamo oltre i nostri confini. Credo di aver detto tutto, adesso cedo la parola al mio collega Maurizio che vi presenterà questi sintomi di gioia, cioè Luca Grossi e Fausto Franchini. Il benvenuto a Blu Radio Veneto ve lo do io, però comunque va bene. Ciao ragazzi, grazie, benvenuti, grazie. A Blu Radio Veneto. Grazie, grazie mille. Allora, cari Luca e Fausto, sintomi di gioia. Innanzitutto, se vogliamo parlare subito del disco, un disco molto valido, molto interessante, ma andiamo con i gamberi. Io voglio sapere, i nostri ascoltatori vogliono sapere, il progetto che Luca mi ha detto a microfono spento, nasce il progetto, l'amicizia tra Luca e Fausto nel 1997, quindi molto tempo fa. Esatto, sì. Un po' di anni. Un po' di anni. Forse ho sbagliato Fausto del 96. 96, ancora sì, meglio, ancora sì, meglio. Perché lui era neopatentato, io invece sognavo la macchina. Quindi, io lui di 18, sì. Ma sono sempre giovani questi due persone, questi due signori che stasera, questi due amici che suonano stasera. È arrivato anche Enzo Mosca, che è un vostro fan accanito, ecco, è qui presente. Dimmi allora, Luca. Sì, nasce con un altro progetto. Con un altro progetto. Un altro progetto. Ma l'idea nasce nel 96, però. Allora, nel 96 nascono delle prime prove strane e poi nasce il nostro primo gruppo, dove io già cantavo e suonavo la chitarra e Fausto per l'occasione suonava il basso. Sì, perché io suonavo la chitarra in altri gruppi e poi pian piano ho smesso e mi sono dedicato a quel progetto lì. E la band si chiamava Plasma. Ah. E alla batteria c'era Folco Fedele e alla chitarra Leotta Simone, che tra l'altro, esatto, sta facendo un tour incredibile come basker. Diciamo, in tutta Italia. Ah, fa un giro praticamente, giro in tutte le piazze. Sì. Ed è cominciato lì. E sono orgoglioso di dire che nel 98 noi abbiamo fatto, diciamo, il nostro primo disco con i pezzi nostri, che abbiamo distribuito a manina in cassetta. Come si usava, come si usa ancora adesso, c'è poco a fare. Che ci ha dato parecchie soddisfazioni. Sì, parecchio. Cioè, è stata la prima esperienza con cui ci siamo confrontati con lo scrivere. Una autoproduzione ante litteram, praticamente. Sì. 97-98, quindi una volta non si usava nel 98 l'autoproduzione. C'erano ancora le etichette, le cosiddette measure, esatto, che bene o male... Sì. Però noi forse eravamo un po' piccolini e aspettavamo il talent scout fuori dalla finestra. Non c'era la Caselli dietro la porta, non c'era. Non c'era. Così nasce tutto da lì, sì. Nel 2000 avete partecipato a un programma di la famosa Tele Monte Carlo 2, come diceva Bon Mike, che faceva musica praticamente, così, The Help. Sì. Era una bella esperienza quella. Sì, è stata una bella esperienza. Tra l'altro, gran sorpresa, perché la formazione era nata da poco. Giusto, è sì. Vero. Eravamo agli inizi. C'eravamo già io e Fausto con altri componenti. E sì, dopo un concorso molto bello, dopo un concorso e evento molto bello in Alessandria che si chiamava Alessandria Wave, redatta da Rumore, sta compilation fatta da Rumore. Poi la, sì, compilation, la compilation era da Rumore, era uscita in distribuzione Rumore, su Rumore, sì. Sì. Esattamente, sì. Quindi già notevole. Rumore è una delle riviste più importanti della cosiddetta alternativa. Esatto. Si parla del 2003. 2001. E lì comincia una serie di vicissitudini, nel senso che abbiamo cominciato il progetto Sintomi di Gioia. Si è sviluppato l'embrione, sì, di Sintomi di, sì, Gioia. Diciamo che quelli lì io li vedo proprio come gli anni in cui sempre di più la sfida era quella di fare il rock cantato in italiano. Che è un po' quello che si sente nel primo disco. Certo. E i rock intendo proprio con le chitarre distorte, con un certo senso. Stasera non presentiamo il primo disco, però. No assolutamente no. E tra l'altro, perché io nella mia testa lo vedo. Poi ognuno divide, scandisce il tempo in base alle sue felicità e alle sue frustrazioni. Il primo disco che ha avuto dei padrini d'eccezione, hanno in Perturbazione. Sì, sì, Cristiano. E non è mica poco. No, assolutamente. Parlavamo a microfoni spenti, cari ascoltatori, dell'importanza di una band come i Perturbazione, sempre poco capita. Poco capita, non si sa per quale sistema diverso, strano, arrivano a un momento al successo come Agosto e poi spariscono, poi vengono dimenticati e rincorrono continuamente una rincorsa. Ma peccato, è pazzesco, sì, peccato, è un grande gruppo che meriterebbe molto di più. Ma secondo te è poco capita dal pubblico o è poco proposta? È un insieme di cose. Non sono semplici Perturbazioni, anche se l'ultimo disco, secondo il mio parere, è molto accattivante. Cosa dici, Enzo? Conferma. È molto, sì, accattivante, sì, sì, e sì, molto, sì, ben predisposto al grande pubblico. Però c'è sempre una porta che si chiude troppo presto. Per chissà come mai, sì. Agli ascoltatori laudo sentenza, perché facciamo così, esatto, per capire come mai certe porte si chiudono anche se non si dovrebbero chiudere. Sì. Tra l'altro faccio collego a caso, dopo il primo disco noi abbiamo fatto una pausa molto particolare, abbiamo fatto uscire un EP, sì, che è stato prodotto da Fabio Magistrali. È l'animale, l'animale. Esattamente. Ed è un EP strano che ci ha permesso di lavorare con Fabio, sembra strano dirlo, ma per me è un altro di guru dell'indie. Esatto, sì. E lui è quello che ha prodotto In Circolo di Perturbazione. Esatto. Quindi dobbiamo studiare una cosa, che i cosiddetti Sintomi di Gioia, quindi i protagonisti della band, sono passati dai Perturbazione, poi da Magistrali, altro indie, per arrivare a Molteni praticamente. Avete fatto tre diverse facciate musicalmente. Sì, e Sintomi di Gioia è una importanza, avete scritto nella biografia, è un inizio. Avete ricominciato da capo. Perché vi chiamate? L'LP si chiama omonimo. Sintomi, sì, di Gioia. Un inizio, sì, un ricominciare. Assolutamente sì, sì. Perché forse è stato il momento un po' della... Il momento un po' della consapevolezza, del fatto che in realtà le canzoni vivono di accordi e parole, no? È un po' la sensazione, io mi ci rivedo un po' come quando arrivi e sali su una macchina e ti rendi conto che quello che contano sono, è il motore, il volante, i pedali, poi che marca è, che modello è alla fine. Quindi avete abbandonato il rock praticamente. Per andare all'essenza siamo delle cose. Un po' alla sintesi. Alla sintesi. Sì. Forse rock li siamo ancora, però insomma siamo più negli Young che... Esattamente, che esattamente. Allora, caro Agostino, come tu ben sai, apriamo la finestra. Il disco è molto bello e ringraziamo per questo il nostro direttore artistico Alberto Prisco, che ha voluto fortissimamente la band stasera e ne siamo molto contenti in ciò. E presentiamo il primo pezzo che abbiamo deciso da scaletta, vero Agostino? Certo. Beh, noi loro hanno deciso, loro assieme a noi, loro, però comunque noi, insomma, ci siamo anche noi, lo zampino è anche nostro, sì, certo. Allora, è la canzone che apre l'intero lavoro, che ricordiamo si chiama proprio come loro, Sintomi di Gioia, che comunque vi faccio subito una domanda, ma ve la faccio dopo. E 2 minuti prima che cambiassi idea. Parliamo dopo di questo titolo di questa canzone. Come vuoi. E poi dai, l'ascoltiamo e poi ne parliamo. Va bene. Vengono le stagioni, è l'autunno degli uomini. Rispondi e mi dici che siamo soldati di 2 schieramenti. tu non lo sai che io odio le regole, ti chiedo di fingere. Tu mi coprivi l'agenda di baci, lasciare briciole su sentieri inutili. Mi fido del senso dell'orientamento, ci fa ballare. Tu scoprirai che io gioco a nasconderti, ci vogliono secoli. Essere la coppia normale, tu mi dici che sono geniale. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Una gran bella apertura del disco, Maurizio. È un disco, un pezzo molto molto bello. Bello come arrangiamento, al di là della produzione di Umberto Maria Giardini, cioè Molteni. È l'idea che interessa, l'idea di scorporare da una musica leggermente più pesante, più potente, a una musica meno potente, più intuitiva, più da pensare, più che intuitiva, da riflessione, secondo me. Una riflessione che continua a correre durante le tracce del disco. Cosa dici, Luca? Sì, Luca e Fausto. Sì, assolutamente. Sì. È un momento... Sì, due minuti prima che cambiassi idea è un po' quando hai bisticciato con la tua ragazza, e poi ti rendi conto che entri in casa, chiudi la porta e lì è finito tutto, no? Certo. Tu pensavi adesso entri in casa e non so, lei andrà in camera da letto, io starò in cucina. In realtà chiudi la porta, basta. Finito tutto. E allora c'è tutto questo gioco dell'attimo, no? Nella vita penso che in ogni giornata, nella nostra routine quotidiana, magari abbiamo due minuti in cui facciamo delle proiezioni velocissime di futuri che non accadranno mai, no? E tutta questa pippa mentale, passatemi il termine, è racchiusa... In due minuti. È racchiusa in due minuti. Esattamente. Allora, prima di presentare un graditissimo ospite, io devo salutare un caro amico che ci sta ascoltando dalla Campania, si chiama Dino Barba, è un discografico che tra l'altro... avremo modo di averlo anche qui in studio con una cantante, Lucia, che magari vi presenteremo qui in studio dal vivo. Nel frattempo ne approfitto per salutarlo caramente, ci sta ascoltando e vi saluta tutti quanti ovviamente. Ciao Dino e buon proseguimento all'ascolto dei programmi. Un gradito ospite, Maurizio, è una vecchia gloria di Blu Radio Veneto, si può chiamare sì, così? Sì, fa parte della famiglia, caro Enzo, fai parte della famiglia. Grazie Maurizio. A tutti gli effetti, chiaramente. Sì, cosa ne pensi di questo pezzo? È molto d'atmosfera, ti accoglie musicalmente parlando. Qualche critico ha scritto che c'è qualche riflesso di Pagliuca, quindi il tastierista delle Orme, e c'è un motivo, il motivo è semplice, loro hanno fatto un grande concerto con i Perturbazioni a Londra assieme alle Orme, è così cari ragazzi? Allora i concerti erano due. Erano due, Orme e Perturbazioni, sempre a Londra però. Però no. Comunati, no, no. Uno era quello a Londra con le Perturbazioni. Allora, avete Londra, suonato anche con le Orme, però? Sì, a Torino. Esatto, con le quindi Orme. C'è stato un approccio e poi con le Orme. Abbiamo registrato una cover delle Orme insieme a Tony Pagliuca. Ecco, vedi, questo è il motivo. Esatto. Cosa ne esatto. pensi di questa avvicinanza col prog, caro Enzo? Beh, questo è stato un pezzo sicuramente interessante. Penso che i riferimenti che hai fatto tu, Maurizio, sono sicuramente corretti. E insomma, anch'io ho avuto questa impressione. E prima tra l'altro appunto parlavamo con i nostri ospiti della loro provenienza sì, di Alessandria e tra l'altro appunto una regione molto viva dal punto di vista musicale, quindi c'è una vena particolarmente produttiva a Torino, ma insomma anche le altre città. Sì, direi di sì. Vabbè, Torino sicuramente è molto attiva attualmente, sì. Sì, sì, sì, sì. E in poi provincia forse un po' meno, però comunque ci sono degli esempi. Sì, sì. Sì, assoluta. Ma poi allora, c'è da dire che la provincia di Alessandria, dove veniamo noi, è una delle province più grandi d'Italia, forse non la più grande, però è veramente vasta. E arriva anche vicino alle montagne, che poi se tu le svalichi arrivi in Liguria, no? Del Genovese. E dunque si va da Torino, che sicuramente è stata capitale della musica con i Subsonica e tutte quelle cose lì, e probabilmente la è ancora. Si va fino ad Acqui Terme, poi, dove in realtà sono nati e vengono un sacco di musicisti che poi hanno fatto tante cose. Nella zona di Alessandria mi vengono in mente, per esempio, Casino Royale. Esatto, ci sono tante. Sì. Dunque, sì, un bel. Un Piemonte ricco, insomma. Marlene sì. Kunz. Marlene Kunz nel Cuneese. Yo-Yo Mundi. Acqui Terme, e Yo-Yo Mundi Acqui Terme è fondamentale. Adesso c'è un gruppo molto bravo con cui faremo qualche concerto, che si chiamano Tomakin, che vengono sempre da Acqui. No, c'è una bella scena praticamente, sì. E ci sono anche i Sintomi di Gioia, dobbiamo mica dimenticare, questo è importante. Quindi c'è un cambiamento rispetto al sound precedente, un cambiamento più rarefatto, molto più accentuato in determinati momenti. Qualche critico ha scritto anche leggermente decadente. Cosa dite? Leggermente. Ma decadente non in senso negativo, è decadente per certe sonorità. Secondo me decadente che riflette, riflessivo, come abbiamo detto precedentemente. Sì. Ma è chiaro che noi senza volerlo facciamo questa musica, che non è sicuramente una musica da... non siamo una party band. No, no? Assolutamente no. E dunque qualche vena. Ma a volte vorrei esserlo, perché così almeno sì. balla. Un po' più facile in alcune situazioni. Sì. Anzi, per me è anche una bella sfida. Spero che di fare qualcosa di un po' più brioso. Beh, non si sa mai. Forse decadente anche per quello, no? Sì, che c'è una certa... ma non in senso negativo, certo, assolutamente, certo. Per quel motivo là. Benissimo, andiamo un altro pezzo, no, li facciamo suonare, facciamo, mi pare suonare. Giusto, sì, perché abbiamo circa due orette stasera, quindi abbiamo tempo. Cosa ci fate ascoltare adesso? Facciamo un Pino d'Oro? Sì, dai. Questa canzone? Ci racconti qualcosa? Questa canzone, allora, io direi che... O vuoi suonarla prima e dopo la presentiamo? Sì. Facciamo così, va. La suonate? Sì, dai. Ok. Adesso che io sono qui davanti a un campo, seminerò a maggio, raccoglierò le foglie quando l'inverno sarà in ostaggio così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui, che è pieno d'oro ma che puzza di vuoto, che è pieno d'oro ma che puzza di vuoto. Adesso che mi perdo qui, sei un miraggio, ti afferrerò un braccio. Reciterò una vita intanto, ascolterò il tuo canto. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. Così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. Che è pieno d'oro ma che puzza di vuoto, che è pieno d'oro ma che puzza di vuoto. All'ultimo secondo, caro Enzo, come la tradizione di Rockway stasera, sì, Rockway è sicuramente Rockway alle ore 22. Assolutamente, ci sei te, sai, mi confondo. L'onda del rock, te lo ricordi ancora? Me lo ricordo ancora, sì. Volevo dire una cosa, caro Fausto. Tu alla fine hai fatto un po' di noise, sì. È una cosa molto positiva. Il noise non contrasta, è praticamente il segmento finale di un discorso che ha cominciato con Pino d'Oro, sicuramente. Cosa dici, Luca? Il noise ci voleva, questo riverbero, questo un po' movimento finale, questo, sì, strozzare in senso positivo un pezzo presuntamente con una certa armonia, che arriva al noise, cioè che dà un certo, sì, colpo allo stomaco in senso positivo. Certo. Ma un po' forse l'intenzione c'era. Fa un po' il paio anche col testo del, sì, pezzo, sì. E poi, sì. Parliamo del testo un momento. Io su Pino d'Oro ho questa immagine sempre in testa che, cioè, scusatemi, poi posso sembrare un presuntuoso. Dimmi. Nel senso che a me viene in mente, mi sembra un'atmosfera un po' francese, no? Mi viene in mente una scena di Ultimo Tango a Parigi, dove piove a dirotto. Qui abbiamo un esperto di cinema, okay, può confermarlo. Esatto, e sai, sì, non lo sapevo. Lui è un esperto di cinema. Sì, vai, dopo scusami, facciamo un po' di pubblicità su Cineforum. Ecco, esatto. Vai, esatto. Luca, vai. E quel noise, come dici te, il rumore così, no? Mi ricorda un po' il senso della, anche del rock vecchio, mi viene in mente la metafora dell'analogico, cioè che in natura tutto quello che sembra pulito in realtà cuba in sé qualche cosa di rumoroso, semplicemente perché non si capisce cos'è, no? Dunque, la pioggia nei fumetti giapponesi sono delle righe, ma dal vivo in realtà è un gran casino di acqua, no? E dunque la volontà è un po' quella di fare qualcosa che è a posto, ma di ricordarsi sempre che in realtà poi la realtà è molto più complessa, no? Sì, un noise fatto con uno strumento elettrico, chiaramente abbiamo una chitarra elettrica, no, una chitarra acustica, una tastiera e un... fammi vedere, sì, è una Stratocaster. Devo vedere la marca, vediamo, identifica un mito, quindi i miti, sì, bisogna identificarli chiaramente. E il finale dà un certo peso, un certo scossone, sia pure limitato, lieve, perché è nell'andamento del disco così, non ci sono gli scossoni grossi. lievi, limitati, ma ci sono. E Umberto Maria Giardini, ovvero Sua Molteni, ha dato lo sviluppo a questi scossoni, a mio parere. Visto che avete fatto una un dialettica ben composta, ben di un certo peso per decidere come era l'andamento, l'arrangiamento dei pezzi. Non è così, Luca e Fausto? Sì. No, sì, nel senso, un bel dialogo c'è stato, ecco, quello sì. Assolutamente. Allora, sì. Com'è nato il dialogo vostro fra Umberto e voi? Qui c'è allora io partivo dalla fine perché c'è lo zampino di Umberto qui parecchio su questo pezzo, ci ha dato delle belle dritte. Le opzioni su questo pezzo erano diverse. Siamo arrivati in un punto dove forse ci voleva invece un riff più potente. Invece siamo andati più sul morto. Esattamente. Sì. È stata forse la soluzione giusta, perché comunque ha tutta una sua linearità. Segue, mi sembra che sia un quadro completo, tutto dipinto con gli stessi toni. Avrebbe rischiato forse di diventare una cosa più simile all'album prima. Forse per come certo. La vedo io per la tipologia di pezzo, non so Luca cosa... No, è vero, e poi è stato un po' una secondaria il modo in cui la canto io, che non ho una voce tipicamente rock, una voce di Bruce Springsteen, no? e dunque forse in questo disco, più che è stata la prima volta che abbiamo anche messo al centro il mio timbro, che è più lieve piuttosto che forte. E abbiamo deciso di stare lì, di non spaccare mai, no? Quindi al centro c'è la voce stavolta, secondo me. Leggermente al centro. Sì, sì. Gli strumenti intorno girano continuamente. Cosa ne pensi, caro Enzo? Beh, questa è l'influenza di Molteni, si sente in questo pezzo. Lui ha questo modo di concepire musicalmente le cose. Esatto. Con la voce centrale, poi che gli strumenti che tendono a accompagnare la voce, secondo me. E nel prossimo disco sarà ancora più centrale. Se riusciamo, Se riusciamo, lavorerei più centrale ancora. Sì. Quindi, che apporto ha dato Umberto? Se no, chiamiamo Molteni, tutti lo conoscono per Molteni. Adesso, anche se però adesso vuoi chiamarsi adesso Umberto Maria Germani. Esatto, sì. Però, che importo, che secondo voi cosa vi ha stimolato quando è venuto in sala e ha fatto i 5 pezzi con la batteria? Allora, secondo me Umberto ha avuto la capacità di ricordarci il motivo per cui suoniamo. Cioè? Perché secondo me certi processi mentali avvengono in giovinezza, perché non si hanno le preoccupazioni, così si ha una sola missione, cioè godere quando si fa la musica, no? Certo. E allora si arriva a fare tutto al massimo o tutto al minimo, no? Ci si ricorda che si può sussurrare o ci si ricorda che si può urlare. Umberto, quando ci ha conosciuti, ci ha beccato in una fase in cui eravamo molto programmatici, avevamo il nostro studio in casa, avevamo tutto, sapevamo dove mettere le mani, così. Però forse lui è arrivato e ci ha detto: ma ragazzi, ma mi ricordo una frase, ha detto: ma ragazzi, ma voi suonate tanto? Perché, cioè, vi vedo che sì, i pezzi sono belli, ma suona, cioè, secondo me la prima cosa che ha detto è: richiudete gli occhi. E detto da lui, dalla sua esperienza, per me è stato uno scossone incredibile. Anche perché per me. Sì. E ci ha fatto veramente il mazzo poi ha cominciato pian piano a farci il mazzo sulle cose banali, no? Sul fatto di Fausto, come tieni il plettro? Ma Luca, ma prendi fiato, su quelle cose che dici, ma cavolo, sono le cose che diceva mia mamma quando lasciati le scarpe, le banalità, no? Però poi vedevamo che alla fine delle prove, dopo 3 ore, ascoltavamo il registrato a casa e dicevamo: Madonna, però anche noi riusciamo a far vibrare qualche cosa, no? E dunque. E poi chiaramente c'è stato un'osservazione un po' più musicale sull'arrangiamento, così. E bisogna dire che lui è una persona estremamente metodica e ti passa o ti aiuta a razionalizzare un metodo, e questa è una cosa importante. Cioè. E poi, scusate, io parlo tanto, bloccate. No, devi parlare, la gente deve sapere, capire la perché cosa, esistono queste robe. La cosa che fa onore ad Umberto, secondo me, è la voglia smisurata che ha avuto con noi e che ha anche con altri di passare la sua conoscenza. Perché cosa che non fanno tanti. Cosa che in Italia non so perché non fanno tanti, no? All'estero senti, non so, ascoltavi Placebo l'altro giorno e dicevo: cavolo, questo qua l'ha scoperto David Bowie, no? Per dire. Certo. E io non ho mai sentito un cantautore nuovo prodotto da Vasco Rossi, per dire. Ma non è che faccio una colpa a Vasco Rossi, perché tanti nascono grandi artisti ma non hanno una vocazione didattica, no? Però Umberto ha la fortuna anche di, secondo me, di divertirsi capendo di insegnare qualcosa a qualcuno. Ed è una cosa importante. Luca ha detto una frase molto bella: tanti cantautori non hanno la vocazione didattica, Molteni ce l'ha, ha perfettamente ragione. Abbiamo citato Vasco. Vasco non ha mai prodotto, ha scritto pezzi per altri, ma più che prodotto ha solo scritto, mentre certo. Umberto Maria Giardini, in questo caso Molteni, ha prodotto un pezzo, cioè è diventato far parte vostra, proprio dell'insieme vostro, e questo è importante, fondamentale. Un produttore deve fare questo, secondo me, entrare a far parte del musicista, musicalmente parlando. Eh sì, o comunque essere, sai, essere quel membro in più che mette d'accordo le te. Sì, i Beatles avevano quando ti sposi, George Martin. Quando ti sposi, io non mi sono mai sposato, non so se lo farò mai, no? Sì. Però quando, visto che è un'idea molto romantica della musica, no? Quando ti sposa, mi si fa il corso prematrimoniale. Certo. No? E il prete viene lì da te e ti dice: allora passiamo 2 giorni insieme e vi dico un paio di cose, e secondo me magari gli dice come ragionare di fronte ai problemi, cioè gli dà un po' il metodo, gli dà una dritta, no? Il produttore artistico deve essere quello. Allora, quando suonate insieme state entrando costantemente uno nella testa dell'altro, allora fai così: se Fausto ti entra troppo dentro, fa del casino e ti rompe le balle alla voce, secondo me devi fare che cosa? Questo, che è il mestiere, proprio come fare la pasta asciutta. Cioè, allora ti dice: allora quando fa così sussurra di più, allora si abbassa anche lui, urla di più, lui... Sono no, cose, no, è bello, è un mestiere. Lui sta dicendo delle cose molto belle, non so se pensi, insomma. Fa capire cosa vuol dire produrre un pezzo, un disco, avere una simbiosi totale. Cosa ne pensi? Esatto, sì. Poi insomma fa capire anche, insomma, la sensibilità di Molteni, insomma, che noi avevamo ospitato qui in radio alcuni anni fa. Certo. E quindi insomma una persona dimostrata sicuramente una persona generosa, valida. Insomma, molto valida, sì. Che purtroppo non ha avuto quello che meritava. Ma dimmi. Allora, io mi sto già divertendo perché sono un egocentrico, no? Dunque, un giorno mi vedrete a Londra con uno sgabello nel parco a dire: devo dire una cosa. Vabbè. No, è una cassetta di patate. Una cassetta di patate. Allora, quando io guardo qualsiasi live, anche televisivo, in un contesto molto mainstream italiano datato, ci vedo incredibilmente la disciplina. La disciplina non è intesa nel senso che siamo tutti soldatini, abbiamo sofferto, ci hanno punito, allora dobbiamo fare una nota. No, la disciplina nel senso che il live più scatenato delle orme a Sanremo, della PFM o del gruppo più punk della terra, a quel tempo, probabilmente dove c'era un senso della fatica, del sacrificio, della didattica di un certo livello, ti faceva percepire nella potenza più immensa di una rock band il compito di ognuno e l'orchestrazione di tutto ciò, no? Secondo me Umberto è uno dei pochi musicisti attuali che si ricorda proprio la logica che sta dietro a un insieme di strumenti, no? E anche noi, per il turbine, allora la colpa è prima nostra che degli altri, però per il turbine della nostra vita musicale da quando eravamo giovani così, non abbiamo mai avuto la sgridata, no? Quella della mamma non ce l'abbiamo mai avuta nella musica. E Umberto ce l'ha data per la prima volta e ci ha fatto capire che le regolette di buongiorno, buonasera, ah, ho iniziato io, ok, inizia la chitarra, allora poi il basso lo fai entrare un attimo dopo, oppure guarda che quando si fa tutti insieme, si entra tutti insieme, il piatto della chitarra deve essere con la cassa e con l'entrata della chitarra. C'è le regolette banali, no? Allora tu dici: ma cos'è, il mondo che va storto? Probabilmente sì. Bene, chiarissimo. È una bella lezione di come fare il produttore, e come fare il produttore da uno come Molteni, praticamente. Sentiamo un altro pezzo. Io proporrei Dal Vivo un'altra volta. Cosa dici? No, come? No, sì, no. Sì, io ho già parlato troppo, non posso anche suonare. No, volete fare qualcosa da disco o qualcosa come da volete vivo? Voi? Scegliete voi. Facciamo... Dai, facciamo il disco. Che sono, dai, facciamo sono dal disco. Sei ispirato. Sbaglio tutto. Facciamo di blu, che sono già così. Ma dal vivo la fate? Sì, la fate? Dal vivo. Ah, facciamo, chiedo scusa. E questo è il singolo, mi pare, no? Questo, sì. No? Perfetto, il singolo dall'album. Dopo ne parliamo. C'è dopo anche ne un bellissimo parliamo. Videoclip. Ecco, dopo Enzo parla di questo singolo. Dai. Allora, com'è che si intitola? Di blu. Non pensavo di stare fuori di senno più di un'ora. Aspettavo che arrivasse l'aurora. Mi immaginavo un tempo, il temporale. Mi sorprendeva senza pensare. fanno più le merende, non torneranno più le vacanze che ho sognato, dove ho amato ciò che è forte di me, di te, sono il solo. Come fare a pensare di meno, ma una parte di me è morta. Qui c'è un buco che vuole parlare. No, non torneranno più le merende, non torneranno più le promesse, il cioccolato che ho spezzato. Bellissimo, gran bel pezzo. Tu dicevo, volevi dire una cosa, Enzo, su questo pezzo? Sì, su questo pezzo volevo dire. Sì, io l'ho scoperto in internet, l'ho scoperto tramite YouTube, e tra l'altro un bellissimo videoclip. E quindi, insomma, prima di passare alla parte, diciamo, specifica del pezzo, che sicuramente Maurizio approfondirà, volevo chiedere ai Sintomi di Gioia come è nato anche il videoclip di questa canzone di Blu. Allora, il videoclip è nato da una nostra idea, da un'idea di Luca, ed è stato, secondo me, vincente il connubio con questo bambino, che tra l'altro è il figlio di del nostro batterista che suonava con noi dal 2001, Luca Ballestrero, lo salutiamo. Certo. E il figlio Ennio. È un video girato nelle nostre zone, che fa vedere le nostre colline. È una produzione tutta nostra. Sì, insieme sì. Vogliamo salutare insieme Daniela. A Daniela Ferretti, che ci ha aiutato a fare la produzione. Ma io l'idea che avevo in mente all'inizio era, mi sarebbe piaciuto proprio rappresentare la passione di questo bambino, come la passione di Cristo, tra virgolette, no? È chiaro che poi abbiamo cambiato idea e abbiamo detto, è anche sbagliato frustarlo, no? Poveretto. Era un po' una metafora, insomma, di questa fatica che fa probabilmente per andarsene via di casa, no? Poi che sia sogno, che sia realtà, hanno detto. È stato bello perché lui ha recitato veramente con tutta la disciplina, anche lì, è stato incredibile. Noi l'abbiamo chiamato perché sapevamo che lui di solito fa quello che dice suo papà. Ah, perfetto. E sapevamo che se Luca gli diceva, guarda Ennio, prendi questa cosa e mettila lì, lui l'avrebbe fatto. Infatti l'ha fatto, e quando era stanco a metà pomeriggio, dopo due sbuffini, vedeva suo papà dietro che diceva, no, guarda che loro ti hanno detto di fare così, fallo che sta finendo. E lui lo faceva. Dunque è andato proprio tutto liscio, ci siamo divertiti. È stato molto bravo. Comunque gli giustificava anche il perché. Perché comunque, se uno dice a un bambino di buttare due guantoni nel prato, forse ti chiede anche perché, e devi spiegargli in due parole semplici. Esatto. E poi siamo arrivati sulla collina dove abbiamo montato la tenda, e quando lui è entrato nella tenda c'è stato un attimo, secondo me, che ha detto, che figata, stanotte si dorme qua, no? E poi gli abbiamo detto, no, guarda, era uno scherzo, bisogna smontare. Mi spiace, dobbiamo andare. Musicalmente è un pezzo molto accattivante, molto ben fatto. Il singolo, si parla dei singoli. Se era stato scelto, è stato scelto come singolo, come pezzo trainante dell'album, perché è una bella melodia, c'è poco da fare. Poi la canti molto bene, Luca, secondo me. La canti in una certa maniera, secondo me leggermente in falsetto, ma forse molto limitato. Leggermente hai quel tono del falsetto che a me piace particolarmente e dà un certo colore al pezzo. E poi è accattivante, prende immediatamente, va immediatamente in circolo. E qua la batteria suona ancora Umberto Maggio. Sì, suona, che apporto ti ha dato nella batteria lui in questo pezzo? L'ha voluto cambiare o è andato come avete voluto voi? A me, i riscontri, i segreti. Allora, no? A me spiace perché gli faccio troppi complimenti. Mi piacerebbe qualche volta parlarne male. Mm. Però Umberto, secondo me, no, dico in questo pezzo particolarmente, è un grande musicista, perché questo pezzo qua si è seduto alla batteria quando l'abbiamo fatto, ha tenuto il ritmo, però in quella semplicità lì cubava proprio il modo in cui gira la canzone, soprattutto la strofa. E poi ha un approccio che noi spesso definiamo un po' beatlesiano, nel senso che, essendo un musicista che non è un appassionato né della chitarra né della batteria, né, ma della musica in generale, è anche pronto a suonare con una scompostezza, secondo me, che dà il colore giusto alla canzone. Secondo me, soprattutto in questo pezzo, ha fatto proprio quello, ha messo le mani anche in maniera un po' istintiva. Naturale, così. Sì. Poi c'è da dire che, per fare un complimento a noi, questo era uno dei pezzi in realtà che era già molto più identificato, no? Esatto, aveva, sì, un ritorno, aveva un'entrata, un ingresso deciso, un ritornello, era e un uscito maturo. Era già maturo, sì. Così. Poi, ed è stato lui a dire: questo è il singolo, questo è il singolo. Ha cambiato il finale. E una cosa, qualcuno ha scritto che voi, te particolarmente, nelle melodie avvicini, assomigli lontanamente a Sufjan Stevens, famoso cantautore atipico americano, molto atipico, visto che ha fatto una serie di dischi sugli Stati americani, poi si è fermato per non troppi, musicalmente parlando. Secondo me sì, in alcuni momenti, se lo ricordi, musicalmente, non dal punto di vista della voce, secondo me musicalmente, perché queste tonalità troncate in alcuni momenti, che tu hai, a mio parere, sempre a mio parere, cosa ne dite? Bene. Sì, infatti, esatto, cioè, così sono contento. Infatti, lui è veramente. Lui è molto bravo, è molto pazzo, francamente, perché l'ultimo disco è, sì, proprio una pazzia completa. Non so se lo hai sentito, Enzo, la rivisitazione di pezzi natalizi per l'ennesima volta, ma è proprio. Sono degli spezzoni, delle cose costruite rispetto ai pezzi natalizi che aveva fatto qualche anno fa. È molto pazzo. Pazzo anche nel senso positivo del termine. Sì, sì. Tu non arrivi a questi ma settori, allora, assolutamente. Secondo me, io provo un'invidia smisurata per quella gente lì. Ma perché penso che sia, innanzitutto, è un musicista dotatissimo. Sì, quello siamo. Sì. E poi è nato in un ambiente dove gli ha fatto fare un po'. Cioè, non tutti hanno a disposizione un'orchestra dei 22 elementi da arrangiare, no? Certo. Con questo, cavolo, lui ce l'aveva e l'ha fatta anche suonare bene. Dunque, ah, sì. Io lo reputo, per me è come se fosse un classico. Non è conosciutissimo, Steven, dalle nostre parti, Però è conosciuto nell'ambito, allora, di una certa. Non di, io dico sono, di elite. Io sono, dimmi, veramente cattivo, potrei sembrare un rompiscatole, ma dalle nostre parti, su Sufjan Stevens, è come dire, leggetevi Montale. Cioè, potrebbe è un casino, cioè non, secondo me non abbiamo. Allora, innanzitutto l'America è enorme e c'è tanta gente, e in quella gente viene fuori l'interesse un po' di tutti perché è così grande. Però in Italia, secondo me, Sufjan Stevens richiede una capacità, un'attenzione d'ascolto, dunque richiede la disciplina nell'ascoltatore. E pochi ce l'hanno. Guarda, ti dico sinceramente, io conosco, ho un sacco di amici che suonano veramente bene, sono preparatissimi. E quando vengono, mi ricordo, ultimamente c'era un mio amico a casa mia, grandissimo suonatore, gli ho detto: conosci Sufjan Stevens? No. L'ho messo su, mi guardava: madonna, ma è favoloso. Gli ho detto: ma non te l'ha detto nessuno? Ma forse l'ho sentito, ma poi non lo sono andato ad ascoltare. Ha fatto tante cose, tante cose. È come tantissimi mai? Album ha fatto. E come mai non vai ad ascoltarlo? Boh, non lo so, è strano. Beh, secondo me è positivo che lo abbiamo citato. Noi di Rockaway lo citiamo sempre, quando possiamo, su Ben Stevens, spesso e volentieri, l'abbiamo messo in scaletta. Caro Agostino, cosa dici? Cosa facciamo adesso? Io gli farei riposare un po'. Facciamo riposare un po', dai. Visto che hanno parlato, sì, hanno parlato e hanno spiegato, quello importante, hanno spiegato. Torniamo a questo disco che porta il loro stesso nome. E io ne approfitto subito di farvi quella domanda che dovevo farvi prima: da dove deriva questo nome? Il vostro nome di gruppo? Come è nato? Parliamone un po' tutti e due. Allora, etimologicamente era un pezzo del ritornello di uno dei primi pezzi che abbiamo fatto con questa formazione. Esatto. Che era esatto. Proprio completamente agli antipodi del discorso che stiamo facendo adesso. Eravamo schiavi di un multieffetto con suoni anni 80 e era venuto un rock stranissimo. Sì. E diceva proprio sintomi di gioia. Sì. E a me piaceva la suggestione della parola, no? Sintomi viene utilizzato sempre in maniera medico e dunque connotato in ambito negativo, invece di gioia era un po' il bene e il male che convivono, un contrasto, no? E poi c'è la volontà nascosta di raggiungere qualcosa che è un po' più della gioia, no? Perché la gioia io la vedo come una sensazione che è legata ad un'unità di tempo, no? E invece poi arriva la felicità, e io spero che la felicità sia uno stato mentale che si possa raggiungere nel corso della vita. Io voglio essere convinto, e sono convinto nel mio inconscio, che anche la felicità e la gioia vera la si può raggiungere soltanto verso la fine della vita, quando si capiscono tante cose, no? Dunque non è vero, ero giovane, ero felicissimo. No, eri giovane, ci facevi le canne e ascoltavi gli Iron Maiden, poi hai fatto tutta la tua cosa. Dunque, insomma, c'è la volontà di trovare un po' di stabilità, anche magari di felicità. Hai ragione. Avete scelto Deep Blue o volete che passiamo a varietà? Sì, passiamo qua a varietà. Siamo varietà, che è il pezzo, tra l'altro, che abbiamo scelto io e Alberto Prisco come disco da lanciare, la proposta da lanciare da questo album. E a noi è piaciuto molto, e anche agli ascoltori, spero. Adesso lo sentiamo. Ok, traccia numero 6, varietà, sintomi di gioia. La gente mi parla di un mondo che è stato. L'Italia non ha più una fabbrica. Mi mangio le mani, le unghie, i panini all'autogrill. La festa richiede una bella dormita. L'Italia non ha più una favola, tutti i miei sogni, bisogni, l'attesa all'autogrill. Poi faccio benzina ed è già mattina, la macchina è vuota, dove andrò? A casa mi rompo, mi stendo e mi guardo. Mamma di varietà che non varia mai, varietà che non varia mai, varietà che pena mi fa dirlo a mia nonna che è stata donna. Prima in un tempo che passava lento, dimentica che con il giornale il vento non può farti male. Varietà che non varia mai, varietà che non varia mai, varietà che pena mi fa. Radio Veneto. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. E in effetti siamo proprio live, siamo assolutamente in diretta, sono le 22.53, quasi 54 in questo momento. Oggi è lunedì 13 maggio 2013, questa è la voce di Agostino, ma soprattutto Maurizio, e poi se ci ha raggiunto anche Enzo, che insomma stiamo cercando di scoprire un po' gli aspetti musicali e anche umani di questi cari amici che ci raggiungono da Alessandria, cioè Luca Grossi e Fausto Franchini, alias, insomma, meglio chiamarli come Sintomi di Gioia, che dà anche il nome al loro secondo disco. Maurizio. Due cose. Prima cosa su questo pezzo, io e Alberto l'abbiamo scelto perché tanto è una bella orchestrazione, e poi questo ritornello che si ripete quasi all'infinito nella fase finale, e musicalmente, dal punto di vista radiofonico, secondo noi piace, e così abbiamo deciso di lanciare il disco con questo pezzo. Questo ripetersi all'infinito, quasi all'infinito, dal vivo può ripetersi all'infinito un pezzo simile. L'idea chi l'ha avuta? Voi due o c'è stato Umberto che ha dato una mano qua? O Umberto qua non c'entra assolutamente? Ma Umberto ci ha dato il lancio per arrivare in potenza, diciamo, a questo finale. E poi l'abbiamo tirato in lungo, abbiamo organizzato. Avete allargato voi volutamente, tirato, come si dice, detto Fausto. E poi c'è stato lo zampino di Eugenio Solinas. Esatto. Citiamoli allora i musicisti, Luca. Eugenio è la persona che aveva già registrato il violoncello sul primo disco, ci ha seguito tanto live ed è stato presente anche in questo disco qua. È un musicista classico e lui aveva in mente questa orchestrazione, questa orchestra di violoncelli, perché in realtà sono solo violoncelli. Ho capito. E così c'è stato proprio il suo zampino. Questo, cioè, una questione cinematografica, varietà, oppure no? Leggermente cinematografica. C'è qualche idea cinematografica? Una metafora più televisiva. Più televisiva che cinematografica. Sì. Ho capito. Era un po' il... ne abbiamo parlato forse l'altro giorno del varietà, che io quando ero bambino mi dicevano: ah, guarda il varietà, e dicevo: ma che cos'è sto varietà, che è sempre tutto uguale, un po' il concetto ancora lì. Ho capito anche quell'idea adesso, sì. Ma esistono ancora i varietà secondo te, Enzo? Hai i tuoi dubbi. Hai i miei dubbi. I tuoi seri dubbi. Una volta il varietà aveva un certo peso. Sì. Scusate, parliamo della Rai, era l'unico che facevano sto tipo di spettacolo. Esatto, che forse io che sono giovane come l'acqua, il varietà come l'acqua, come sarebbe a dire come l'acqua? Cioè, spiegami questa. Sì, io che sono del 94. Ecco, sì. Forse quei varietà lì, quelli veri, non li ho mai visti, no? Cioè, quelli di con grandi costumi. Io sono sono la generazione drive-in. Beh, è un varietà, anche quello tra virgolette, quello varietà divertente, comico. È un'idea di varietà che per la prima volta proprio hanno dato uno scossone, cos'è, esatto, Vicenza. Sì. Era piuttosto, insomma, divertente, ironico, diciamo che adesso non li fanno più. No, adesso non li fanno più. Ci sono adesso altri generi di... Adesso hanno copiato tutti dai drive-in. A proposito di drive-in, abbiamo avuto Faletti oggi. Sì, abbiamo avuto Faletti. Sì, esatto. Che era uno che si è lanciato a drive-in. Famoso Paninaro, Giorgio Faletti. Madonna, sì, Paninaro me lo ricordo. Esatto. Questa mattina è venuto. Ma non diceva anche ce l'ho io la brioche? No, cosa diceva? Sì, anche quello. Ce l'ho qua la brioche. Sì, una cosa simile. Sì. Beh, dopo si è riciclato come grande autore di gialli. Forse Vito Catozzo in quel caso. Vito Catozzo, come giustamente hai citato Enzo, Vito Catozzo. Poi si è riciclato, è diventato un grande scrittore di libri gialli, eccetera. C'è da dire che noi giovanotti mi ricordo di The Drive-In per altri motivi, che è molto elegante. Sì, anche molti altri. Al gentil sesso. Altre cose, sì. Ma è una cosa, fa parte anche quello dello spettacolo. Assolutamente. Ritorniamo a una cosa molto semplice. Oltre al live che faremo fra qualche secondo, Umberto Maria Giardini è il produttore artistico. Voi siete i produttori effettivi dell'album. Esatto, sì. Sì. E l'etichetta è la vostra. La nostra etichetta si chiama Indie da Cosa. Ecco, fondata da te e da Fausto, praticamente. Sì, se te ne occupi te. Che idea? Come mai l'idea di fondare un'etichetta importante, significativa? Perché quei tempi che corrono, meglio fare tutto in casa. Ma allora, dentro di me, a me piacerebbe produrre altri artisti. Non so se ce la farò, non so. mi fa sorridere il fatto che mi stanno arrivando già tante cose, e tra le altre anche cose molto belle. E poi fare l'etichetta, sì, era un po' il discorso dell'autogestirsi anche nella maniera più bella nel senso più bello del termine. Essere liberi o no? Essere liberi. Liberi. Noi in questo momento non abbiamo neanche un editore. Avevamo ricevuto delle proposte, però per come vanno le cose, cioè non ci sono piaciute, nel senso che restavano proposte che ci sembravano... ci davano degli obiettivi che eravamo sicuri di poter raggiungere anche da soli. E se un giorno avrò un editore, dovrà essere una persona completamente innamorata di me. Ho comunque capito. Spero che per esempio mia madre faccia l'editrice musicale. No, nel senso, mi piacerebbe... mi vengono in mente gli editori. Io ho letto un libro splendido che ha scritto Sting, che quando ho cominciato a leggere ho detto "Dio, farà schifo". In realtà è bellissimo, che è la sua vita da quando è nato appena prima di diventare famoso, no? E appena prima di diventare famoso fa capire quanto è importante la figura dell'editore, perché ha fatto 3 anni che non era ancora nessuno, però c'era un editore che lavorava per lui. Se io trovo un editore, vorrei veramente avere un editore di quel tipo lì, chissà se mai. Anche editore vuol dire che dava un appoggio economico. Da un appoggio economico, e poi proprio essere capace a... lo guidava, sì. È la parte commerciale reale della tua opera, no? Esattamente. È commerciale, secondo me, nel senso più buono del termine. Sì, sì. Esatto, no. Perché succede che il commerciale spesso capita, okay, vedi il caso di Elton John, che si è fidato commercialmente di un personaggio e ha avuto un piccolo buco nel suo... vabbè che non ha tanti problemi, però ha avuto un grosso buco. Io dico nel senso più del termine, perché quando è magra poi tutti si spaventano a parlare di soldi, e allora i soldi ce li abbiamo bisogno tutti per vivere, dunque certo. In tutte le buone fattorie, anche quelle che fanno bio, c'è chi alleva il pomodoro, però poi c'è chi lo va a vendere. Anche quando compri il gas, il gruppo di acquisto solidale, alla fine per avere la roba gli dai i soldi. Cioè i soldi restano una cosa importante. L'importante, cioè, vorrei uno che proprio riesca a trovare i soldi e li trovi nel bene, perché sa descrivere bene la mia musica. E questo è un po' un problema, però non si sa mai. Se no lo faccio io, non c'è nessun problema. Guardate quante robe che dico, saprò. Cioè. suoniamo adesso. Ah, tra l'altro, dimmi. Se ti va, tipo do una canzone, però. Proprio di questo discorso, c'è un discorso di questo genere nel disco? Mi pare che sia un discorso di questo genere. La costruzione dell'album è stata fatta in questa maniera o no? Discorso dell'appoggio, tipo sovvenzione da parte degli ascoltatori, è nata in questo sistema? Avevate un'idea di quel genere? Avevamo partecipato ad un fundraising. Esattamente. E poi non abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ah, perfetto, ho capito. Cioè, abbiamo puntato altissimo in realtà. Vabbè. Volevamo fare un videoclip, abbiamo chiesto una somma. Abbiamo chiesto una somma per realizzare un videoclip che era forse un po' fuori troppo mercato. Alto. Però noi abbiamo detto: se questi qua ci devono amare, ci devono amare sul serio. Ci hanno amato 9 al posto che 10, non abbiamo raggiunto il gol, e poi i videoclip ce li siamo fatti da soli, dunque. Capito. dunque volevamo tanti soldi, abbiamo avuto niente, perfetto. Ascoltiamo la canzone che si intitola? Suoniamo adesso, sì. Ordine. Ordine? Ordine, sì. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave, l'onda del rock. Vuoi che ti immagini? Il letto è un lato del mondo. Con una corda accendi la luce, la luna è sullo sfondo. La tua pelle come il silenzio coerente, come l'ordine che ti compete. Quando vuoi che ti chiami, il fuso è lo scherzo del mondo. Nella tua notte sentirai sirena che suona sullo sfondo. voce come un rumore indecente senza l'ordine che ti compete. Quasi impressionistica la Japan, la David Sylvian, sto pezzo qua, secondo me, decisamente. Cosa dici? Cosa ne pensi? Perché no? Aspetta che si sta... No, no, ma lui mi aveva capito sicuramente. Io l'ho sentita così. Perché no? Sì, sì, sì. Perché è un grande artista. Assolutamente sì. È un grandissimo artista e gioca sull'impressionismo, sì. Gioca. Fa delle cose meravigliose. Brilliant Trees, ve l'ho ricordato, un album meraviglioso, secondo me. Io non lo conosco tanto, devo essere onesto. Ma tu sei decisamente molto più giovane di me, quello forse anche. Ma no, questo non vuol dire niente. Ma io sono forse tra i più giovani della musica italiana. Tra i famosi ti cresce il naso. Io tra i famosi della musica italiana forse sono il più giovane. No, ma musicalmente come l'avete fatto in questo momento questo pezzo? Tanto era scheletrico al 100%. A me piaceva quei tocchi della Stratocaster che faceva Fausto, leggermente. Allora, tu hai colto anche un po' nel segno, perché noi questo disco lo stiamo portando in giro in due. E per portarlo in giro in due abbiamo fatto un lavoro che poi è diverso da registrare il disco, che è di riarrangiamento dei pezzi in due. Ho capito. E dunque sono contento che tu dici queste cose, che probabilmente dal disco non escono così. No, dal disco, ma qua sì. Però in questo momento ho questa sensazione. Abbiamo cercato di andare in una direzione un po' più diversa, giocando senza badare tanto al senso del ritmo, perché non c'era niente di ritmico. No, chiaramente no. E facendo qualcosa che forse è più impressionistico, come dici te. Secondo me sì, ho questa visione. Sì, su questo pezzo in particolare. Questo pezzo sì, assolutamente. Ma è bello che sia live, di solito cambia i connotati in senso positivo. È un live acustico ancora più difficile. Ricordiamo, cari ascoltatori, che il live acustico è il più difficile di tutti. Enzo lo sa anche lui. Con l'elettrico si può barare, con l'acustico non si può barare. Cosa dici? Puoi avere tutti gli aggeggi che vuoi, ma è sempre acustico. Esatto, lì viene fuori. Lì viene fuori se uno sa suonare, esatto, veramente. Esatto. Ok, Agostino, facciamo il giochetto adesso. Cosa dici? Vabbè, se tu dici, noi lo facciamo. Ecco, bene. Allora è giusta. Siamo un po' in ritardo, ma glielo faccio fare a Enzo. Via. Vai, Enzo. Dai. Enzo, allora chiediamo ai nostri amici Sintomi di Gioia, Luca e Fausto. Quali sarebbero i 5 dischi che portereste su un'isola deserta? Ovviamente, insomma, senza copiare l'uno con l'altro. Ok. Allora, io ne ho 3 pronti e poi adesso vediamo un attimo come va a finire. Allora, a me è venuto in mente gli esordi di Battiato, quindi Fetus. Ah, bene, bene, bene. E quindi sperimentazione totale. In Italia, i bambini, la vita, concept album, eccetera. Bellissimo, un album, uno dei dischi più interessanti della musica italiana, almeno in quel periodo. Cosa dici? Un bel trauma. Un bel colpo allo stomaco, lui che faceva le cover di Lacrime e Pioggia di Aphrodite Child, ha cambiato totalmente. Poi? Poi ci metterei l'ultimo dei Psychosonica dei Ritmo Tribale, questo per la... No, lo so, ma valgono anche... Chi parte prima è avvantaggiato. Sì. Sì, è partito prima Fausto. Porca miseria. Scusa. Me l'hai già rubato uno, vediamo il prossimo. E poi, non mi ricordo più il terzo. Psychosonica dei Ritmo Tribale, comunque. Psychosonica dei Ritmo Tribale, io direi di sì. Cioè, vale la pena, sì, veramente. Secondo me sì. un album a caso di De André? A caso? Sì, qualsiasi. Primo no, periodo qualsiasi. O l'ultimo no, periodo? Beh, facciamo l'ultimo periodo. L'ultimo periodo. Facciamo Anime Salve. Anime Salve, che è l'ultimo in assoluto. Esatto. Questi sono i tre. Questi sono i primi tre. Posso meditarci su ancora? Sì, hai ancora qualche secondo. Dai. Cosa dici, Enzo? Che abbia ancora qualche secondo? Sì, siamo buoni. Sì, sì, perché sì. Lunedì per quello. È la stessa sì. Cosa. Esatto, abbiamo ancora... Di solito il mercoledì non siamo così no, buoni. Meno male, meno male che inizia settimana. Dai, Luca. No. È un casino, veramente. No, è semplice, dai. No, ma... Allora, psycho... io vorrei parlare di psicosonica di ritmo tribale, però. Non si può. La legge è ferrea. Anzi, finisci tu le tre canzoni, poi chiediamo di nuovo a lui la spiegazione del ritmo tribale. Allora, facciamo proprio i testardi e facciamo soltanto musica italiana, dai. Dai, vai. Perché sennò io starei qua a dire Grace di Jeff Buckley. Eh sì, ce ne sono tantissimi. Beh, facciamo, poco, dimmi. I tuoi quelli che preferisci. Vabbè, insomma, dai, Grace di Jeff Buckley. Ecco. Facciamo allora. Enzo, cosa ne pensi che tutti su 180 musicisti sono venuti l'anno scorso? Esatto. 170. Tutti. O 150 hanno tutto, scelto Grace di Jeff Buckley. Beh, però è fantastico. Lo passa anche Pino Scotto, per cui... Eh sì, esattamente, lo passa anche Pino Scotto. Esatto, per cui... Per noi, all'epoca... Abbiamo messo un sacco di volte Chris quando era appena uscito all'epoca. Sì, sì. Dopo sì. Chiaramente deve sempre ringraziare consciamente la cover che ha fatto di Alleluia. C'è poco da anche, fare. Sì, è stato sì. un bel percorso di lancio di Grace. Certo. Purtroppo ha fatto sempre solo quel disco. Ne ha fatti altri, ma altri sono stati levati via alla forza. Perché lui purtroppo dopo Chris sì, non era certo, più certo. In vita. Quindi Chris Jeff Buckley, meraviglioso. Poi Luca? Dai, in circolo di perturbazione. Ah, ecco, finalmente abbiamo citato. E perché, senso, no? E perché no? Circolo di perturbazione, sì. Discone. Cosa ne dici, Enzo, di questa scelta? Insomma, a me sai che piacciono molto. Certo. Per cui, tra l'altro, visto che verranno a suonare a Padova a giugno in un festival che faranno in Piazza Castello. Va bene. Esattamente. E speriamo che vengano anche... I sintomi di Giacomo. Ah, non si sa mai. Cosa dopo... Beh, i rapporti sono ottimi con loro ancora. In realtà ho scritto Cristiano per fargli delle domande a riguardo, però chissà, magari apriremo qualche loro concerto, non lo so. Bene. Sì. Li aspettiamo allora anche in concerto a Padova. Esatto, sarà una bella una coppia sì. Che si ricostituisce, esatto. Praticamente. Avete già suonato con loro, quindi praticamente. E poi... no, c'è troppa roba. Beh. Vabbè, dai, facciamo proprio i wow dei Verdena. Ah, l'ultimo, quello doppio, sì. Quello che ha è il loro album bianco praticamente. Esatto, secondo me è un discone, cioè c'è poco da fare. E non ho assolutamente paura di dire Jeff Buckley e dopo dire perturbazioni, perché non perché? Assolutamente. Ecco, ci ha messo i Verdena. Agostino, esatto. Immediatamente ha messo sui Verdena. E ancora vuoi dire te gli ultimi due? Oddio, veramente. Ascoltiamo troppa musica oggi. C'è cioè un casino. Lo so. Un disco a caso dei Flaming Lips se lo dovrebbe portare. Ecco, ci vorrebbe Marco Borgato stasera. Allora, hai citato i Flaming Lips. Un grande tutto. Concerto Verdena per Flaming Lips. Esattamente. Però secondo Marco hanno suonato meglio i Verdena. Ecco, vedi. Vedi? Tu secondo te li hai visti? Ma sì, io li ho visti. Diciamo che i Flaming Lips fanno anche un grande spettacolo scenografico, diciamo. Sì. Sì, assolutamente sì, col cantante che diciamo viene introdotto in una sorta di pallone sì. Diciamo lanciato sul pubblico, insomma quello fa un effetto insomma che non si vede spesso. So che gli hanno anche rubato le mani giganti che sì. Il cantante utilizza esattamente esatto, sì. E poi devo dire un altro sì. Allora se non mi ricordo più se si dice così Vecatimest dei Grizzly Bear, che è il terzo album di Grizzly questi non me li ricordo assolutamente. Bello. Musicalmente non sì, me li ricordo sì. È un'amnesia probabilmente se vedo la copertina tra lo l'altro faccio suoneranno il 28 maggio a Milano bene che secondo me sono da sentire sì sono da sentire il disco nuovo tra l'altro l'ho ascolticchiato velocemente ma è valido è validissimo e boh secondo me sono una roba proprio grandiosa i Grizzly Bear sì. Sì. Pausto tocca a te gli ultimi due Allora, io stavo pensando a qualcosa di italiano, però veramente c'è troppa carne al fuoco. Mi viene in mente invece qualcosa di altrettanto... Allora, Björk, Homogenic, che dovrebbe Björk, essere il sì. Secondo, il primo, non lo so più. Ma Ne hanno fatti tanti, però è un disco importante. Sì, e quello secondo me ha dato una bella spallata e ha anche ispirato un po' di gente. Sì, certo, sono d'accordo con te. E non lo sento da tanto tempo, ma lo risentirei volentieri comunque. Si va di nostalgia e sono anche abbastanza banale, ma probabilmente The Dark Side of the Moon. Io ce li ho tutti. I Pink li hai tutti. Beh, chi non ha The Dark Side of the Moon? Generazioni su generazioni, o no? Cosa dici? Disco si è stato ristampato per l'ennesima volta. Dimmi. Però è difficile questo lavoro. Che... Sì, lo so, è difficile, però secondo me ha un certo. Potevamo dire tante altre cose. Sì, potevate dire tante cose, però avete citato dei gruppi come i Flaming Lips, che non sempre vengono citati, sono stati citati poche volte nelle scelte dei musicisti, degli artisti che sono venuti qua a trovarci, vero Agostino? Rarissimamente. Jeff Buckley no, Jeff Buckley è il top, ma Jeff Buckley piace a tutti, anche chi non l'aveva mai sentito, poi lentamente, progressivamente, è come Nick Drake che una volta sentiva pochissime volte, però adesso è ritornato, giustamente, perché merita un chissà artista come mai, immenso, sì. Un artista immenso. Difficile, ma no, difficile anche per suonare, io non sono un musicista, ma chi è chitarrista come voi, gli stessi accordi difficili di Nick Drake, molto difficili da suonare, perché lui aveva cercato, aveva creato, e anche il cantato, aveva una cordatura particolare, aveva creato proprio una cordatura particolare, un musicista straordinario che finalmente è stato riscoperto, perché purtroppo anche quello sfortunato, anche perché aveva era un po' particolare, possiamo dire, meraviglioso, in ogni caso. Ecco, questi sono i dischi dei Sintomi di Gioia, mica male. Non ti ho mai chiesto quali sono i tuoi gusti, Maurizio, ma lasciamo perdere. Io posso citarti Cat Stevens, un grande amore, un cante amore che non... Non si può copiare. Un grande amore che non finisce mai, non tramonta mai. Ne ho messi due anche ieri in bacheca su Facebook. Ma io ho scelto sempre How Can I Tell You. Messa che quella, perfetto, allora non si può copiare. Non ho messo Father and Son. Ma quella la conoscono tutti. Ho messo Lady Dumbledore. Quelli di Enzo, visto che è qua, Enzo. Citane uno, dai. Beh, allora cito... Sono tanti anni che non fai questo giochetto con noi. Esatto, esatto. Beh, cito il gruppo a cui sono più affezionato, che sono i Tra Allegri Ragazzi Morti. Ecco, sì, appunto. E quindi citerei magari l'ultimo, Nel Giardino dei Fantasmi. Esattamente. Poi, insomma, è un altro gruppo italiano storico, gli After Hours, sicuramente. Un altro gruppo. Hai paura del buio, sì. Benissimo. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti con i Sintomi di Gioia. Sì, però, sì, adesso. Esattamente. 23:15, cosa facciamo? Ancora adesso? Loro. Cosa facciamo adesso, Agostino? Ma io direi, visto che abbiamo chiacchierato tanto, facciamoli anche riposare musicalmente. Torniamo al disco. Certo. Hanno scelto la traccia numero 7, cioè Pieno d'Oro. Benissimo. L'hai scritta sempre tu. Tu scrivi tutte le canzoni. Allora, vero? Io scrivo i testi. Come nascono le tue canzoni? Ma il più delle volte nascono accendendo il telefono, mettendo rec e cominciando a cantare, a suonare. Quello che ti viene, ti viene. E poi c'è un lavoro di sbobinamento che spesso avviene anche insieme a Fausto, che è il primo ascoltatore, si scelgono le cose migliori e pian piano si va avanti. Come testi. E alcune volte le cose migliori sono proprio le prime anche. Cioè, come sempre. Non tutto disciplina, non tutto, scusami, ti ho interrotto, non tutto è improvvisazione. Ci sono stati alcuni episodi proprio dove la buona era quella. La prima è finita sul disco. Sì. Di L'Animale. Infatti, forse. L'Animale era registrata proprio. La prima. È la traccia che avevo registrato sul telefono, riscritta per la prima volta, che poi ripresa insieme a Fabio Magistrali e riarrangiata. Ma sono frutti della tua fantasia i testi o sono cose che ti accadono e quindi. Sono frutti delle mie sfighe, perdono. No. Diciamo che mi lascio molto trasportare e sono veramente affascinato da quelle parole che ti vengono a caso, che poi ti rendi conto. Cioè, io pian piano serve i meccanismi del cervello. Secondo me, se chiudi gli occhi, ti viene in mente una parola che non c'entra assolutamente niente con niente. Però poi scatta un processo significante che va ad attaccare dopo quella parola altre parole per andare a dire qualche cosa. Che a volte tu non sai che cos'è, fin quando non riascolti dici, ah, ma qua stavo pensando all'altro giorno che mi sono arrabbiato per quella cosa. È un po', anche per dire, varietà è finita così, no? Cioè, la gente mi parla che un giorno di un mondo che è stato, l'Italia non è più una fabbrica, così, ma sto mangiando i panini all'autogrill, frustrazione, poi varietà che non varia mai, perché l'ho detto? Ma stavo pensando a quando guardo la televisione, la crisi... non so se mi sono spiegato, è un brainstorming, no? È il lato positivo e cattivo della mia scrittura e di anche probabilmente tanta scrittura degli anni 90, secondo me. Arriva da lì, il procedimento è quello lì. C'è qualcosa che sta diventando più ragionato e in questo disco c'è qualcosa, c'è qualche lampadina che si accende, come Canzone per te, che secondo me è musicalmente la canzone meno riuscita del disco, che ha però il testo più ragionato. Chissà che via sceglierò. Perché è meno riuscita, Luca? Perché quella che... Perché l'idea era diversa, era un'altra. No, secondo me è meno riuscita perché è quella dove si riconoscono dove si riconoscono i pezzi. Ah, ho capito. Sì, ho quando capito. L'ascolti, il tuo cervello, senza saperlo, dice, questo è così. È finito la prima strofa, adesso comincia il poi il ritornello. C'è proprio una struttura scoperta. Invece le altre vanno via e non te ne rendi conto. In realtà proprio avevamo questa idea qua per questo pezzo qui. È quello che si è trasformato di meno, che ci piaceva forse di più come idea, e sentito è forse quello meno interessante alle nostre orecchie. E tra l'altro dico delle cose che vanno contro la radiofonicità. Te lo stavo proprio per dire questo. È strano sentirti... Perché... a questo punto voglio dire, una cattiveria. Potevate far meno di metterlo, giusto? Se non vi piaceva poi... È vero anche quello. È una cattiveria. No, hai ragione benissimo ed è un ragionamento che sto già facendo sul disco nuovo, perché noi stiamo già suonando tanti pezzi del disco nuovo live, e c'è qualche cosa che dice, ma questo non viene, ma ho 160 pezzi sul telefono, levalo questo qua, no? Che problema c'è? Dunque quello che dici qua è verissimo, ma la cosa che mi fa pensare, che mi porta veramente tristezza e mi fa considerare il fatto che in fondo noi siamo dei masochisti, perché ho detto delle cose che sono proprio, è l'anti-radiofonicità e l'anti-discografia, nel senso che quello che il pezzo che per me è interessante è quel pezzo dove tu non riconosci la struttura, no? Allora, quando è finito dici, oh madonna, mi sento peggio. Ah, però perché prima stavo ascoltando quel pezzo che quindi è bellissimo, no? E invece, secondo me, quello che si ascolta oggi per radio è tutto assolutamente codificato. Tu quando guidi la macchina devi invece sorprenderti e dire, madonna, stavo bene, adesso invece mi stanno martellando, ah ok, questo è il ritornello. Invece per me il procedimento deve essere inverso. Cioè, la canzone deve essere un riassunto del casino, non deve essere una bomba nel silenzio, perché cioè tu vai nella giungla, c'è un casino da cinema perché gli animali fanno rumore, poi pian piano codifichi e tiri fuori la canzone, no? Mentre oggi sembra diverso, no? Hai la ventola del computer accesa, la lavatrice che va, il cellulare che squilla, tutto, poi devi arrivarti la botta, boom, e dici, ah, questo è il ritornello, allora dobbiamo ascoltarlo, guarda caso poi ti dice, ti amo, mi manchi, e funziona, no? Noi facciamo il procedimento inverso, infatti non diventeremo mai delle star. Vabbè, però sei pieno d'oro. No, non è detto, magari puzzo di vuoto, come dicevo. Pieno d'oro. Adesso che io sono qui davanti a un campo, seminerò a maggio, raccoglierò le foglie quando l'inverno sarà in ostaggio. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. Che è pieno d'oro ma che di vuoto, che è pieno d'oro ma che puzza di vuoto. Che mi fermo qui, sei un miraggio, ti afferrerò un braccio, reciterò una vita intanto, ascolterò il tuo canto, e così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. E così sia un'eterna primavera e mai come lui. come lui, che è pieno d'oro. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, io se posso dare un mio piccolissimo parere, il mio modestissimo parere, a me piace molto questa canzone, perché mi ricorda un po' gli anni 70-80 come sonorità. Io c'ho, mi ricordo in quegli anni lì, forse Maurizio tu li conoscerai anche tu, c'era un duo, Fatalità come voi, che mi piaceva tantissimo, si chiamavano Loi e Alto Mare. Certo che mi ricordo. Che con Loi e Massimo Alto Mare, no. Insieme a me tutto il giorno, quattro giorni insieme, Torre d'Ombra, cioè c'era questa sonorità che mi ricordava moltissimo quelli, noi che siamo vecchi speaker di tanti anni di radio. Io ho cominciato come te, Maurizio, giusto nel 76. Sì. C'erano queste sonorità. Pensavo forse li avete conosciuti, insomma. No, loro non li conosco in ogni caso. No, anzi me li segno perché voglio andare, sì, a ascoltarli. Sì, sì, hanno fatto due o tre dischi, di cui uno bellissimo iniziale, si chiama Portobello, te lo anche ricordo. Chiaro è molto anche bello. Chiaro. Checco Loi era figlio del regista Nanni Loi e Massimo Altomare era un ragazzo di Verona che adesso si dedica al jazz o colonne sonore. E avevano fatto questo connubio tra musica acustica, molto bella, molto interessante. Bello, e Portobello, che è il primo loro album, molto interessante come sonorità acustiche, ma anche orchestrali e forse in alcuni momenti, come giustamente ha detto Agostino, ricordate loro. Dobbiamo tener conto anche che erano altri tempi, sì, però sì, certo, anche certo. Musicalmente, però l'idea era quella. Ed i testi erano molto interessanti come i vostri, non erano mai buttati, erano sempre di un certo tipo, molto preziosi, costruiti bene anche musicalmente, era costruito alla perfezione. Questo hanno fatto tre album, come ha detto giustamente Agostino, il più bello a mio parere, quello che agli ha sdoganati è stato Portobello, poi ne hanno fatti altri. La canzone più famosa però è Su Chiaro. Sì, la canzone più famosa, il singolo è Su Chiaro. Però Portobello aveva era un concept album creato dai loro viaggi a Londra, un'idea. Giravano per Sentili. Il mondo. Eccoli. Ma tutto il giorno insieme questo qua? Sì, sì, sì. No, questo è insieme a me tutto il giorno. Ah, insieme a me tutto il giorno. Insieme a me tutto il giorno. A ridere. Di che anno è questo qua? Questo aspetta che te lo dico, 70. Perché 70. Siamo sulla fine degli anni 70. Sì, te lo dico fra qualche istante. 73. All'inizio 73. E questi dischi sono stati ristampati anche in linea economica, perché interessa, da una etichetta, da una major che non citiamo, la CBS, praticamente li ha ristampati e si trovano anche in linea economica, cioè a pochi soldi. Io e meritano. Diventavo matto di questo duo, insomma. Questi due dischi, sì, mi piacevano tantissimo. Molto bravi, erano molto bravi. Quattro giorni insieme, poi una canzone famosissima, l'hanno rifatta anche ultimamente, in chiave, non loro, in chiave con tanto di DJ che ne so, che ha fatto un po' di mix, insomma l'hanno un po' rovinato, ecco, diciamola fuori dai denti, però questi sono i vecchi Loi e Alto Mare. Che roba, ma quanta roba bella c'è, che c'è un sacco di cose interessanti. A proposito di cose interessanti, io ho letto che tu parlo con te Luca, ma forse anche Fausto, dedichi molto tempo alla musica e hai una chitarra anche in cucina, così per non perdere tempo, è così? Che hai una chitarra anche in cucina? Sì. Io quello in quell'intervista lì ci ho tenuto a sottolinearlo. Sì. Perché secondo me era un po' una domanda a doppio taglio. Cioè, perché? Come un po' quando... Perché voleva perché capire come ragionavi, come rispondevi. È il giornalista giovane che comincia a dire, ma tu che lavoro fai? Così, ma parliamo della musica, cioè, cosa... Ma quanto tempo dedichi alla musica? Ma cosa vuol dire? È come dire quante volte fai l'amore al mese, ma... Sono cavoli miei praticamente. Magari poi la faccio una, ma lo faccio bene. Cioè, voglio dire, cioè, il disco, quindi io allora lì ho risposto un po' male e da bulletto. Sì, esattamente. Ah, ho la chitarra anche in cucina. Con questo, finendo tutto questo ragionamento qua, e dopo questo disco qua ho deciso di lavorarci un po' più secco, soprattutto sull'acustica. Proprio per il discorso che facevate prima voi, perché noi venivamo dall'elettrico, no? Allora di solito io sbracciavo come un demoniato. E invece adesso, sai, dici, ma c'è anche la ghost note, cioè puoi stoppare due corde, cioè. E dunque, per avere questa confidenza qua, che a volte mi dimentico anche quando sono un po' stanchino così, mi sono messo la chitarra lì e ho detto, allora, dobbiamo andare in giro in acustico, me la parcheggio lì. Mentre faccio il soffritto, prendo e faccio due accordi. Mentre fai il soffritto. Quindi è vero che sei in cucina. Comunque è vero. Al di là della battuta. Anche perché, guarda, onestamente, se siamo qua e stiamo facendo così tante cose, ce la mettiamo tutta così, è perché il tempo che abbiamo, il tempo che ho io, lo impiego per la musica. Perché sennò non ce la fai, voglio dire. Cioè, questo è chiaro. A proposito di tempo, citiamo un po' di date che avete in giro, se ve li ricordate, chiaramente. Allora, questa settimana già sì. Giovedì suoniamo. Sì, a Spazio Musica Pavia. Poi sabato giochiamo in casa per la festa di Alessandria, la festa del borgo, e domenica siamo al Circolo Magnolia a Milano. Però un circolo storico. Sì. Per la musica. Assolutamente. Sì. Infatti siamo molto contenti di suonare lì. E poi continuiamo un po' il giro, faremo Vercelli, Novara, così. Andremo ad Acqui, citata prima. E, l'11 giugno dobbiamo segnare Roma. E stiamo cercando di andare al sud in agosto e stiamo cercando di tornare in Inghilterra con un piccolo tour ad ottobre da soli noi con un mio amico di Berlino, un altro cantautore di Berlino, per fare tre concerti lì. Comunque e abbiamo già poi un bel po' di date in autunno soprattutto sì. nella nostra zona, no? Quindi avete già dunque adesso noi cominciamo ad avere il privilegio di poter dire di no a qualcuno nella nostra zona, dunque vuol dire che c'è una crescita, no? Quando cominci a dire no, non vengo, vuol dire che proprio sei arrivato. Di solito se vi dicevi guarda compio gli anni, vuoi suonare? Ma sì, dai. Invece com'è la situazione lì ad Alessandria a proposito musicalmente, nei locali sto parlando? Ma tutti sono tanto pessimisti così, però se i musicisti che hanno voglia di portare in giro la propria musica in tutte le condizioni, cioè anche in due, in un metro quadrato, secondo me stanno pululando le situazioni, è incredibile, ma ci sono tante situazioni. Tipo io in Alessandria ho rifiutato tre date che potrei mettere, cioè paradossalmente se io dicessi sì suono dappertutto magari a settembre, ottobre, novembre mi sparo 10 concerti in Alessandria è piccolina, dunque vuol dire che c'è tutta la volontà di fare la musica live. Secondo me la musica live adesso vive un ottimo momento perché è la risposta giusta alle tribute band e poi al modello di vita che sta ossessionando un po' tutti, no? Cioè tutti attaccati a Facebook, quanti invitati c'è alla festa? 10, poi vai, sono 10.000 persone, no? Forse Facebook non dice la verità. Cioè, e dunque c'è un po' la voglia di dire basta, dai, facciamo. Per me, poi in Alessandria c'è del movimento. Sì. E un'altra cosa, se uno vuole fisicamente il tuo disco, come deve fare? Allora, il nostro disco fisico è distribuito da Venus, che adesso ha avuto dei problemi. Sì, di grossi problemi. E sono ritornate le copie invendute a casa e riandranno in altro distributore che stiamo definendo adesso. Sto definendo breve. E siamo felici di dire che noi abbiamo venduto nei negozi fisicamente. Ah, questa è una cosa molto positiva. Ci abbiamo venducchiato. Che sinceramente per me è stato anche il momento in cui ho detto... non sono proprio della generazione internet. E questo ti fa sorridere perché dici vuol dire che ho anche il mio target di ascoltatori. sono giovani, però magari sono quei giovani che si fanno comprare il disco. Dunque, sì, ma ti ascoltano perché o vengono ai concerti o ti scoprono su YouTube, sì, o su Facebook. Sì, perché poi questa volta con questo disco magari hanno letto qualcosa sulle riviste cartacee, perché comunque sono state interessate. Devono essere gran partiti, però. Devono essere gran partiti, per le riviste cartacee. Sì. Sì. Forse la scelta giusta che potremmo fare col disco nuovo è stamparlo solo in vinile. Solo in vinile, È una bella scelta. Però qui è limitato, perché non tutti hanno ancora il giradischi. Però io sento Naso che per certi sta diventando un po' come live. iPhone. Cioè, se ce l'hai sei figo e dunque puoi fare uno e l'altro comunque. Ma a me piacerebbe più dire no, guarda il nostro disco solo in vinile, sì. Se no te lo regalo. Che comunque teniamo a sottolineare che sia io che Maurizio e anche, penso anche Enzo, siamo veramente pro 33 giri, perché sì, il suono della musica è veramente molto più caldo, meno metallico, meno freddo. Si sente molto meglio, insomma, col vinile, meno piccolo, meno giapponese. E poi lo tocchi, sì, sì, la copertina. No, niente, non ho niente contro i giapponesi, però piccolo e no, ma è la verità. Ma guarda, ma anche proprio da mero venditore, da produttore di me stesso, se dovessi essere qua e dire ma volete mica il mio disco, se tiro fuori un CD, cioè, se vi do in mano il TDK magari vi fa comunque la stessa effetto. Invece tira fuori un bel padellone, anche quando lo vendi dici ma compro, non vedi com'è grosso, quanto pesa, lo metti sulla libreria, poi lo guardi, cioè ha un senso. Se lo dai a me non potrei mai ascoltarlo, perché l'ho eliminato purtroppo il giradischi. Sì, l'avevo a casa, ma insomma adesso si può fare anche retromatta. Sì, esatto, bisogna acquistarlo di nuovo. Una bella testina Shure come una volta, insomma, sì, come una volta. Va bene, adesso però ci ascoltiamo la musica dal vivo. Certo. Di questi Sintomi di Gioia. Che impressione ti hanno fatto fino adesso, Enzo? È una bellissima impressione. Io appunto sono venuto un po' a sorpresa questa sera, perché sapevo che sarebbero stati presenti, li avevo già ascoltati e devo dire che sono molto contento e soddisfatto, sia musicalmente che personalmente, dei Sintomi di Gioia. Dobbiamo sempre ringraziare il nostro direttore artistico, esatto, grazie ad Alberto che sta seguendo, visto che su Facebook ci mette sta ascoltando. Ciao Alberto, ciao Alberto. Per noi è un onore comunque, grazie. Bene, che cosa sentiamo adesso, caro Sintomi di Gioia, allora? Maggio 2002. Perfetto. Su Radio Veneto, come non l'hai mai sentito. Ho una nostalgia che lievita e mi passa una fotografia di maggio 2002. A maggio nessuno della compagnia restava in casa. Sento una follia che libera le strade alla periferia di un viaggio 2002. Quel viaggio cercavo una vacanza vuota per rigenerarmi. A sorprendermi se io mi sentivo felice. Scoprivo la mia radice. sapevo che mi aspettavi. Altro pezzo molto bello, un critico ha detto metafisica gocciolante. Cosa ne pensi? Metafisica gocciolante nel maggio 2002. Ha sparato questa. Forse era quella pioggia. Sì, di cui esattamente, parlavo prima. Proprio quella, probabilmente quella. Ma io l'ho sentito come proprio un brano da cantautore, questo qua, 100%. L'ho notato, almeno in questo momento qua, 23:39. L'ho notato così. Dentro, ho sentito così, non so se sei d'accordo Enzo o Agostino, proprio da cantautore, ma nel senso positivo, no? Negativo, sì. Più che nel tuo DNA, questo è leggermente diverso, lo reputo così. Sì, sì, è interessante, perché in qualche modo nella mia testa si discosta questo brano, per come è registrato così, e va in un'altra direzione, che è forse più alternativa. Guarda che strano, però non lo so, perché io dentro di me l'idea di maggio 2002 dove è uscita, Luca? Maggio 2002 è un po' quello di cui si parlava prima, che spero che venga fuori in questo periodo storico, che a maggio 2002 io mi ricordo che appena è cominciata la primavera, che c'era il sole, non c'era una sera che non si usciva, cioè io ero sempre fuori di casa, che certo. Mi bevevo la birrettina, e dunque a maggio nessuno della compagnia restava in casa, questo qua è il bello. Mi ricordo un po' una suggestione così, dico anche con nostalgia, no? Poi avevo meno responsabilità, meno impegni di adesso, voglio dire, però è stato incredibile, perché ho cominciato a uscire a maggio, ho smesso probabilmente il primo di novembre quando si è messo a piovere. Tutte le serie mi facevano la birrettina sul castello ed era uno spettacolo. Cioè. Sì. Però musicalmente l'hai interpretato, ripeto, secondo me da cantautore in questo momento. Ottimo. È una mia impressione. Sì, basta, sì. Chiaramente. Tu cosa dici, Fausto? A me fa venire in mente anni in cui suonavamo tutti i giorni. Sempre in giro per le strade. No, ma anche soltanto con quattro gruppi diversi. Uh-huh. Facevano prove tutti i giorni e c'era tanta vita, tanto scambio di informazioni, di proprio quello che stiamo anche. Quindi cantautore nel gruppo, praticamente, un cantautore nel gruppo. Sì, e poi il cantautore, l'aspetto cantautorale qua ce lo vedo molto nel raccontare una situazione vissuta, che però arriva anche a tanta altra gente facilmente, e lo dico, non l'ho scritto io il testo, sì, ci può stare. È un cantautore, è uno che canta qualcosa di vissuto, anche di quotidiano, perché visto che per tanti mesi sei uscito tutti i giorni, è una quotidianità. Sì, assolutamente. Un'immagine. Che rapporti avete, Fausto, lo chiedo a te magari, con i vostri fans, chiamiamoli così, durante i vostri concerti? Allora, dipende un po' dalle situazioni. Abbiamo trovato le situazioni più disparate ultimamente, che stiamo girando parecchio. Abbiamo visto delle realtà con pochissima gente, estremamente attenta, al limite proprio il massimo dell'attenzione, e invece anche delle platee numerose che parlavano tra di loro. Il rapporto secondo me è valido, nel senso che comunque abbiamo degli scambi, abbiamo delle sensazioni indietro dal pubblico. Cosa si può dire? Ma bisogna capire. Allora, purtroppo secondo me oggi il fan musicale non è soltanto più il fan musicale, ma si può suddividere in varie sottocategorie, no? Un po' quello che stavamo dicendo prima, cioè c'è chi ascolta tutto il giorno musica e lo fa in maniera precisa, cercando le cose che vuole, però lo fa su internet e banalmente si è dimenticato che esiste la musica live, e magari ti ferma per strada e dice ma tu sei quello, ma sto pezzo è favoloso, però non verrà mai al concerto, ma semplicemente perché non esci più di casa, proprio la gente esce di meno di casa, no? E io ne incontro tanti, no, che dicono: ma voi siete grandissimi. Tra l'altro suono domani dietro casa tua. Ma sai, sì, sono impegnato, sono impegnato. E quello è un po' l'andazzo di sempre. C'è da dire che quelli, paradossalmente, per questo comportamento un po' distratto, a chi interessa la tua musica interessa veramente. Noi ci siamo trovati in dei concerti in questo periodo che c'era per esempio una coppia, lui e lei, che ci ascoltavano. Abbiamo finito e si sono comprati un CD, lui e lei. Ah, una testa. Sì, e io ho detto: madonna, cioè, ero quasi commosso. Dunque, cioè, chi è interessato adesso è interessato sul serio, cioè, non ci sono tante vie di mezzo, eh. Com'è il vostro concerto? Come lo fate? Quante canzoni? Quanto dura? Come siete sul palco? Noi siamo, adesso facciamo un'ora e venti. Sì, un'ora e mezza massimo, sì. Siamo due. Anche provando con tutto il gruppo, con anche un basso e una batteria. Sì, ci stiamo provando. Esatto. Ci stiamo provando nel senso che stiamo provando con due persone veramente brave, che però non avrebbero tempo di seguire la cosa. E al Magnolia suoneremo con basso e batteria. E gli facciamo i nomi del basso e batteria? Sì, Stefano Zannini, che è stato il nostro bassista per tanto tempo, che ha suonato nel... Esatto, e adesso suona la batteria. E poi Riccardo Scifò, che è il bassista di una band di Alessandria, con cui io sto cominciando a lavorare come produttore artistico, e si chiamano Attorianzo loro, e negli Attorianzo canta il Dipa, che secondo me è una persona estremamente dotata, sono un gruppo fantastico. Sono una party band che ha tante cose da dire, però. Io li trovo fenomenali. Speriamo di riuscire a fare qualcosa, cioè, di dar seguito così, perché le cose che faccio nella vita sono forse un po' troppe in questo periodo. Ma si chiama passione, sai? Si chiama passione, infatti. Ma quello che ha detto Fausto comunque del duo è importante, nel senso che ce le siamo proprio andate a cercare. Cioè, abbiamo fatto il disco con un sacco di musicisti. Abbiamo finito di registrare il disco, abbiamo detto: dai, proviamo a suonare le canzoni. Abbiamo detto: ma come si fa? Ma che accordo era? Ci eravamo dimenticati tutto. Ristudia tutto, le falle in due. Abbiamo cambiate tutte, sì. Dunque, adesso il concerto vuole essere un insieme di piani e di forti un po' improvvisi per svegliare un po' le persone, perché sennò questi pezzi, se li fai pensando che dietro c'è una batteria e un basso che non ci sono, rischi di diventare un po' monotono. E poi ci sono dei momenti strumentali che nel disco non ci sono, un po' prog, un filino, e basta. Cerchiamo di, siamo sicuramente un po' più psichedelici che sul disco, abbiamo più delay, ci sono dei pezzi inediti dove Fausto va al piano e comincia a delirare, e io attacco effetti e robe così, dunque ci sono delle sorprese, secondo me. Se ascolti il disco lo vedi molto tutto posato, elegante, tutto bene, perché era quello che avevamo in testa. Se vai in live senti la mia voce un po' più scorretta e un po' più di calore, diciamo. Quindi è una bella situazione comunque. Secondo me sì. Le prime abbiamo iniziato con certi concerti che proprio sentivo che facevamo schifo. Lo dico nel senso che abbiamo cominciato, c'erano certi momenti, per esempio, che usavamo due acustiche e facevamo delle cose un po' simili così. E c'era un sottofondo di o mare nero in spiaggia col sicalante. Cioè, c'era quelle situazioni lì. Poi pian piano così ti senti, ti rivedi col telefonino e in un attimo ti viene l'idea, dici: no, facciamo molla l'acustica, cosa. Prendi l'elettrica, fai una nota al posto che 5, pam pam pam pam. Al quarto concerto abbiamo cominciato a fare una bella figura, tipo il Diavolo Rosso ad Asti. Perché noi non eravamo un duo, no? Dunque è stata Diavolo Rosso ad Asti, è stato il primo concerto che anche abbiamo chi c'era svoltato, sotto diceva: sì, un pochino. Ma avete studiato veramente bene tutto lo spettacolo? E noi abbiamo detto: sì, abbiamo studiato, si vede, siamo contenti, bravi, applauso e basta. Bene, questa è la fotografia esatta di un live dei Sintomi di Gioia, praticamente. Ok, 23:47, cosa abbiamo in scaletta? Un altro pezzo da disco? Sì, Agostino? Io direi di fare canzone per ti. Per ti. Travaglio, per rivoluzione, per Marco Travaglio. Sì, dedicata a Marco Travaglio. Okay. Ma ti è venuta un'ispirazione guardandolo, vedendolo o sentendolo? Guarda, era un po' questa canzone, non sapevo come chiamarla. E parla di un triangolo, è il triangolo no di Renato Zero messo nella politica e nella società, dunque c'è un dialogo tra queste persone. E mi piacerebbe che una di queste persone fosse metaforicamente Marco Travaglio. Okay. Semplicemente perché secondo me è uno che ce la mette tutta per cercare la verità, secondo me. Poi magari trova le cose che non sono la verità, però lui come missione ha quella di cercare la verità, E secondo me è una cosa da apprezzare, insomma. Vabbè, l'ascoltiamo. Allora, canzone per te, cioè quella appunto dedicata a... Comunque c'è una tra parentesi da rivoluzione, giusto? La rivoluzione. La rivoluzione. Sì. Sintomi di gioia. Che ti sembra ti abbia preso in giro, è vero. So che ti sembra di essere il suo schiavo, è vero. Adesso aspetto che ci abbandoni lui, aspetto che la rivoluzione la facciamo insieme. La libertà, la tua penna che ti tiene solo, non ci vede, non sa. So che vorresti scrivere basta coi tasti, le faccine gialle non le usi bene, temi l'infelicità. Adesso aspetti abbandoni lui, sei convinto che i pensieri se li alleni portino del bene anche a lui e noi. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, eccoci qua, 23:52 quasi, in questo preciso istante, subito dopo questa canzone dedicata a Marco Travaglio. Chissà perché questa voglia di dedicargli una canzone, Luca. Chissà, non lo so. Però il discorso è che mi sa che lui non l'ha ancora ascoltata. L'hai detto almeno? Io non direttamente. Non gli ho mai scritto. Io personalmente non gli ho mai scritto. Comunque non penso che starebbe lì a leggere la mia mail. Però gli è venuta un'ideuzza per mandargliela. Ma anche perché poi non mi porterebbe a niente, no, sta, certo, cosa. Però faglielo sapere, cioè, certo. Sarebbe bello, carino. E lì ricitiamo il discorso del disco, del sito ed altre cose, perché la gente Facebook, sicuramente, esattamente, può essere interessata. Allora, www.sintomidigioia.it è il sito ufficiale, che è quasi sempre tutto aggiornato. E facebook.com/sintomidigioia è la fanpage. E basta, tutto qua. E il disco, se uno vuole acquistarlo via... Il disco è tuttora acquistabile fisicamente... Ancora ovunque, è in stock in tutti i web store, da IBS ad Amazon, dunque chiunque lo voglia se lo fa arrivare a casa. Se no, se lo compra su iTunes digitale, trovabilissimo, sì, anche quello vecchio. Ricitiamo a un momento le date, quelle veloci da adesso. 16 maggio, Spazio Musica Pavia, 18 ad Alessandria alla festa del Borgo Rovereto e il 19 al Circolo Arcimagnoli. Circolo Magnoli. Per andare un po' più al sud, Roma l'11 giugno. A Roma l'11 al Forte giugno, è un'altra data molto importante. Sì, poi la prima volta a Roma non siamo mai stati. Cosa positiva. È locale, ti ricordi dov'è? È il Fanfulla. È Fanfulla. Forte è un altro, Fanfulla. È un altro locale importante, momento importante, posto importante di Roma, interessante. Sì. Quando è uscito questo disco? È uscito ad ottobre 2012. Quindi sono 5-6 mesi, insomma. No, 8 mesi. 8 mesi. È uscito ad ottobre 2012, appena uscito, Manni sembrava che interessasse a poche persone. E poi pian piano ho cominciato a rodare così e forse i primi frutti di veri li stiamo raccogliendo adesso. Tant'è vero che alcune persone dicono è uscito il disco, io dico no il disco è uscito ad ottobre 2012, però per me è uguale. Io scommetto che avete già altre canzoni pronte, altro disco pronto in arrivo. Assolutamente sì. Sì, assolutamente sì. Abbiamo dal vivo ne suoniamo già alcune. Sì. Il nostro sogno nel cassetto sarebbe ritornare a registrarlo con una band per fare una cosa un po' più veloce, un po' più sanguigna. Entro l'anno o l'anno prossimo? Però infatti chiudendo, secondo me la band giusta non l'abbiamo ancora trovata. No, forse no. E dunque si farà un discorso secondo me l'anno prossimo. Sì. A me piacerebbe tipo marzo del 2014. Sei libero a marzo, Maurizio, tu? Mi sembra di aver sentito che passano di qua, vero? Sì, io sono sempre libero quando loro decidono, Alberto li contatta e via, vengono qua a suonare, a presentarlo. Se avete voglia, assolutamente. Poi ci sarà anche Enzo, che sicuramente è libero nel 2014 a marzo. Beh, insomma, le porte sono aperte, se ci volete venire a ritrovare. Se posso aggiungere una cosa, ci vedrete con un live in studio a Rai 5. Ah sì, vero, me l'hai detto. Allora, che abbiamo già registrato gli studi della Rai a Milano. Quando è? Dovrebbe essere il 22 maggio. Quindi fra qualche orario? Giorno. Su Rai 5 dopo il film. Dunque alle 23:30. 23:30. Sì. Mercoledì 22 maggio. Dovrebbe. Comunque penso che lo vedete criptato su YouTube, sì. Contro tutte le leggi del pianeta. Chiaramente. Enzo, le tue considerazioni? Per questa... È stata una serata musicalmente molto, molto piacevole. E come dicevo prima, sia dal punto di vista musicale, poi abbiamo conosciuto due persone molto simpatiche, molto disponibili, e quindi insomma direi una bella serata, vero Maurizio? Sì, un'ottima serata. Musicalmente abbiamo subito detto io ad Alberto, è un disco che vale, difatti si è sentito anche dal punto di vista dal vivo, chiaramente. Il duo, come abbiamo detto prima, l'acusticità è un discorso un po' più difficile, però è stato assolutamente superata la prova senza nessun problema, secondo me. Grazie mille. Bene, un grazie di cuore a Luca Grossi e Fausto Franchini, che sono rispettivamente voce tastiera e chitarra. E l'appuntamento al prossimo disco, insomma. Vi aspettiamo qui, grazie di aver accettato l'invito da venire. Grazie a voi, davvero. Grazie. In bocca al lupo per quello che fate, quello che farete. Okay. Maurizio, noi ci diamo appuntamento a giovedì. Sì. Io domani sarò con Flavio, mercoledì da solo e poi arriverai te giovedì. Sì, giovedì c'è un gruppo che fa una blues. Bobby Soul si chiama. Bobby Soul. No, Bobby Soul, è Bobby Soul, che non confondiamo. E magari ci sarà una special guest. Questo non lo sapevo, è una novità delle 23:57. Fresca di questa sera, te lo dico poi in privato. Bene, forse, non è ancora confermato. Forse. E allora, un buon proseguimento ad ascolto dei programmi di Blu Radio Veneto che continuano con Non Stop, ma prima c'è il programma con la Paola De Simone. Però prima di tutto ci ascoltiamo l'ultima canzone dei Sintomi di Gioia, che è Balcone. Bene, ciao ragazzi e grazie ancora di tutto. Ciao, grazie, buon anno. Ciao. Prego. Gran parte di quello che dico non si avvera mai. Mi sento preso in giro dal futuro, annusando un calendario senza pagine. Ci troveremo in fila a conti fatti. Vedo una soluzione. Rinchiudi i miei sogni in balcone. La noia va. che muove la mia età. Mi cambiano le voglie e la pazienza. Le piante sono semplici, non vanno mai più là, ma vivono il momento nell'essenza. Vedo una soluzione, rinchiudi i miei sogni.